This evening, questa sera, I want to talk a bit more deeply about the psychology of the Buddha. Voglio parlarvi un po' più approfonditamente della psicologia del Buddha. And we can use the victory verse and then the possiamo usare i versi della vittoria. And then the Paticca Samuppada. La Paticca Samuppada. Chanting, puja. So, this is mainly addressed to people who don't know very much about Buddhist psychology. E questo soprattutto rivolto a chi tra di voi non sa tanto della psicologia del Buddha. But it should be a bit of a refresher for everybody else, eh? Ma sarà anche qualcosa per rinfrescarvi i ricordi, anche se lo conoscete già. Sì. We see the Buddha here celebrating his victory. Vediamo che qui il Buddha celebra la vittoria. Cercando ma non trovando il costruttore della casa. So this casa is the self. Quindi casa qua significa il sé. Sorry. Scusate. Il costruttore è il sé. And the house is the psychophysical organism. E la casa è l'organismo psicofisico. Ho viaggiato attraverso i cicli. Di innumerevole nascite. So rebirth is very difficult for us. La rinascita per noi è molto difficile. We don't have much of a concept of that in our culture. Nella nostra cultura non c'è tanto una concezione che riguarda il rinascere. So I shall talk about that tomorrow. E di questo ve ne parlerò domani. So, quanto dolorose sono le nascite che si ripetono incessantemente. Incessantemente. Oh, sorry, I should have translated. You've got the English translation, no? No, I gave you the English translation. No. The one I gave you yesterday was ieri English. No. Only one side. Ayo. What happened? It's only the one side. I wish you should have said, avreste dovuto dirmelo. I don't think I have. No, they're all in Italian. Quelle che abbiamo qua sono tutte in italiano. Well, I'll try and translate it. I'll try and translate it. It says. Ecco. Adesso lui traduce l'italiano in inglese. Che ecco, no. Sì. Searching, I did not find the constructor of my house. I traveled across many cycles of innumerable rebirths. How painful have been these constant rebirthings. Incessant. O costruttore di casa, o house builder. Ora sei stato preso. I've seen you. Tu non costruirà di nuovo una casa. You will not construct another house for me. I tuoi traversi sono stati rotti. The cross beams are broken of the house, eh? The cross beams are broken, see? You understand, yeah? E la tua trave maestra è stata demolita. That would be the main struts of the house are completely destroyed. Yeah. Now, here is the important bit. La coscienza incondizionata è stata realizzata. Right, the unconditioned consciousness has been realized. Yeah? Everything in this phenomenal world, in this physical world, is conditioned. Tutto quello che riguarda questo mondo fenomenico e fisico è condizionato. Everything arises dependent on something else. Ogni cosa sorge in dipendenza di qualcos'altro. That's what it means. It means nothing has its own existence. E significa proprio questo, non c'è nulla che abbia un'esistenza di per sé. So we are dependent on air, on food, on society and so on. Noi, per esempio, dipendiamo dall'aria, dal cibo, dalla società e così via. That's why one of the cruelest punishments is to isolate somebody. Ecco perché una delle punizioni più crudeli è isolare qualcuno. What do you call that? In prison, you know, where they... Isolation. Isolamento. I've forgotten the English word. Mi sono dimenticato dell'inglese che corrisponde a isolamento in prigione. Sono vecchio. And every type of Brahma here really means every type of defilement has been destroyed. E qua Brahma significa che ogni tipo di inganno è stato distrutto, ogni tipo di attaccamento. Sì. So he says he has seen the house builder. Quindi lui ci dice che ha visto il costruttore della casa. And he's completely destroyed the house builder. E ha completamente distrutto il costruttore della casa. And in so doing he's discovered something that was within that house. E nel fare questo ha scoperto qualcosa che c'era dentro la casa. And it was an unconditioned consciousness. Ed era una coscienza incondizionata. Not only that, he found that all the past unwholesome conditioning had gone. E non solo quello, ha scoperto anche che tutte le condizioni non salutari passate se ne erano andate, erano scomparse. This process of discovering the unconditioned within us. E questo processo dello scoprire l'incondizionato dentro di noi. Is the focus of all his teaching. È il focus, la focalizzazione di tutti i suoi insegnamenti. And again, hopefully I shall make that more clear tomorrow. E spero che domani ve lo chiarirò meglio. But even here, through this psychology, we can see it very clearly. Ma anche qui, attraverso questa psicologia, lo vediamo chiaramente. So it begins with dall'ignoranza, come condizione derivano le predisposizioni karmiche. Oh, that's interesting. That's an interesting translation. È una traduzione interessante. This avidya is a non-culpable state of not knowing. Quindi questa avidya è uno stato non culpabile. Colpevole, scusa. Of not knowing. Del non sapere. So this is not ignorance in the bad sense. Quindi non si tratta di ignoranza nel senso negativo. It's not as though we should have known better. Non è che noi dovremmo aver saputo le cose meglio. It's that we didn't know at all. È che non le sapevamo affatto. So if you take just the ordinary birth of a human being. Quindi se prendiamo la nascita ordinaria dell'essere umano. As that consciousness awakens in us within the womb. Man mano questa coscienza si risveglia in noi quando siamo nel grembo di nostra madre. So we can hear mother's voice, we can feel her around us. Per esempio riusciamo ad udire la voce della madre attorno a noi. And then at the point of birth and those first few months, 3 or 4 months. E poi al momento della nascita e nei 3-4 mesi successivi. It is said that the baby experiences nothing but a flood of information. Si dice che il bebè non sperimenta null'altro se non un'inondazione di informazioni. So there's no reflection, there's nothing, there's no thinking, there's no thought. Non c'è ancora la capacità di riflessione e il pensiero. And we can understand that state to be a complete state of not knowing. E possiamo comprendere come quello sia uno stato completo di non sapere. And it seems that only after 4 months or so that the first object appears from this mass of information. E sembra che sia solo dopo questi primi 4 mesi che cominciano a comparire degli oggetti distinti da questa massa di informazioni. And the first object is your carer, your mother, usually. E il primo oggetto che compare è la figura di accudimento, solitamente la mamma. So when we see babies reaching out for their rattles and stuff like that, Quindi quando vediamo un bebè che si protende per afferrare il suo sonaglio o qualcosa del genere, they're creating the three-dimensional world. In quel momento i bebè stanno creando il loro mondo tridimensionale. And it takes 3 years for that child to have separated itself from the outside world. E ci vogliono 3 anni prima che questo bambino abbia completamente separato se stesso dal mondo esterno. At the age of 3, that's when we say, I am a boy, I am a girl, and so on. Ed è all'età di 3 anni che il bambino dice sono un maschietto, sono una femminuccia e cose del genere. Even up till then there is some deluded relationship with the mother. Fino a quel momento c'è ancora una relazione illusoria con la madre. In other words, the child doesn't know how much of him is his mother and how much of his mother is him. Il bambino, in altre parole, non sa ancora quanto di sua madre è in lui e quanto di lui è in sua madre. So you can see this process of moving out of the outer world to create the inner world. Quindi si vede questo processo dell'uscire piano piano dal mondo esterno e iniziare a creare il proprio mondo interno. Okay, so this avidya is telling us that we come from a place of not knowing. Quindi avidya ci dice che noi proveniamo da un luogo, da uno spazio di non sapere. Now it's because of this not knowing that all these unwholesome conditionings arise. Ed è a causa di questo stato di non sapere che sorgono poi tutti gli altri stati non salutari in noi. For those of us who think that this is just one life, we begin at an early age to create these conditionings within us. E per chi tra di noi crede che esista una sola vita, si può dire che iniziamo a un'età molto precoce a creare tutti questi condizionamenti. But there is also the understanding of past lives. Ma c'è anche la comprensione delle vite precedenti. So you come into this life with past attitudes. Quindi entri in questa vita portando con te delle attitudini passate. And these begin to manifest as you grow. E queste poi si cominciano a manifestare man mano tu cresci. Either way, the dependent origination works. In ogni caso, entrambi i casi, l'originazione dipendente funziona. Either you can think of it as past life, present life, future life, or just this life. Sia che tu lo intenda con una concezione di vite passate, vite attuali, vite future, o che tu invece creda solo che esista questa vita. Now, these habits, this fundamental not knowing, questo non sapere fondamentale, has created a wrong relationship with the psychophysical organism. Ha creato una relazione errata con l'organismo psicofisico. That relationship we call the self. E questa relazione la chiamiamo il sé. It says, this is me. Che dice, questo sono io. Now, that child and we ourselves, all we want is to be happy. Quindi i bambini, ma anche noi stessi, l'unica cosa che vogliamo è essere felici. And when you define happiness, what is it you think of? E quando definite la felicità, a cosa pensate? When your body feels good, quando il corpo sta bene, is that happiness or is happiness arising because the body feels good? E quella è felicità o è un tipo di felicità che sorge perché il corpo sta bene? Is the food we eat making us happy or is the happiness arising because of the food we eat? Quindi il cibo che mangiamo ci rende felici o questa felicità sorge grazie al cibo che mangiamo? When you say I am happy, do you mean it as a concept in the mind with dreams and fantasies? E quando dici sono felice, lo intendo con un concetto mentale come dei sogni, delle immaginazioni? Or when you say I am happy, are you actually talking about a mental state? O quando dici io sono felice, in realtà ti riferisci a uno stato mentale. In other words, a mood or emotional state within you. In altre parole, uno stato d'animo o uno stato emotivo dentro di te. Would I be right in saying that when we say I am happy, I mean I am emotionally happy? Ho ragione se dico che quando noi diciamo che sono felice, intendiamo dire che siamo emozionalmente felici? I'm expecting you to nod vigorously. E io mi aspetto che adesso facciate un grande cenno di sì, di assenso con la testa. No? No? Sì, sì, grazie. Sì o no? Okay. So, if we understand that our purpose in life is to make my heart happy, in a state of some form of happiness. Quindi se noi comprendiamo che la finalità della nostra vita è di rendere felice il nostro cuore attraverso alcune diverse forme di felicità, however we might define what makes us happy, qualunque sia il modo in cui definiamo quello che ci rende felice, it might be money, power, friends, che siano i soldi o il potere o gli amici, so we then begin to collect these things that make us happy. Allora cominciamo a raccogliere, a collezionare tutte queste cose che ci dovrebbero rendere felici. And this we call acquisitiveness. Ed è quello che noi chiamiamo acquisizione, cioè... In a more moral sense it's greed. In un senso più moderno, avidità. Greed in that very wide sense of wanting what makes us happy, wanting. Ma avidità in un senso molto ampio, nel senso che include tutto quello che noi vogliamo acquisire perché ci renderebbe felici. Now you can understand that once you have collected all this stuff, you need to defend it. E poi sappiamo tutti che una volta che abbiamo messo insieme tutta questa roba, dopo dobbiamo difenderla. Against people who want what we have. Ci sono delle persone che vogliono quello che abbiamo noi. Therefore, aversion arises naturally out of acquisitiveness. E quindi l'avversione sorge naturalmente, spontaneamente, una volta che c'è questa avidità. Now, if the enemy is bigger than me, then I have the only option but to run. Quindi, poi, se il nemico è più grande di me, l'unica opzione che ho io è di scappare via, fuggire. Fear arises also naturally out of acquisitiveness. E quindi anche la paura sorge naturalmente da quel tipo di avidità. Now, in the Buddha's teaching, both fear and aversion come under the same heading. E nell'insegnamento buddista paura e avversione stanno nella stessa categoria, nello stesso capitolo. So these are called the three roots of our existence, the three unwholesome roots of our existence. E queste vengono chiamate le tre radici non salutari della nostra esistenza. Delusion, wrong understanding. L'illusione, in quanto comprensione errata. Which creates this self that wants to achieve things. Che crea il sé, che vuole poi raggiungere delle cose, ottenere delle cose. Acquisitiveness and aversion. L'acquisizione. Acquisitività, cioè facciamo l'avidità e l'avversione. Sì. And aversion, remember, is both aversion and fear. E ricordiamoci che con avversione noi intendiamo sia l'avversione che la paura. Ah, okay. So this makes us this gives us some idea of how avidya, not knowing, becomes of how the conditionings we have are conditioned on avidya, not knowing. Quindi questo ci dà un po' un'idea di come le condizioni che abbiamo sono condizionate da avidya, l'ignoranza. So now we have the sankhara, paccaya, vijnana, that the sankhara, these conditionings, are dependent on consciousness. E adesso abbiamo sankhara, cioè queste condizioni dipendono dalla coscienza. In other words, if you're not conscious, then you don't know anything. In altre parole, se tu non sei conscio, non sai nulla. Now, the Buddha categorizes our human experience. Il Buddha suddivide in categorie la nostra esperienza umana. Into five categories. E ne usa cinque. So there's all those things that are to do with the body. Ci sono quelle che hanno a che fare con il corpo. So there's the physicality of the body itself. Quindi c'è la fisicità del corpo di per sé. And there's also that point in our meditation when we are in contact with the body through basic sensation. E poi c'è anche quel punto che accade nella nostra meditazione in cui siamo in contatto con il corpo attraverso le sensazioni basilari. So when I point out that first of all you feel pain. Quando io ad esempio vi indico che a un certo punto sentite dolore. And then you go into the pain and feel different sensations. E allora si tratta di andare dentro il dolore e sentire le diverse sensazioni. This is the point where the mind is touching the body. Questo è il punto in cui la mente tocca il corpo, entra in contatto con il corpo. This is the point where the mind touches the sense bases. Ed è anche il punto in cui la mente entra in contatto con la base sensoriale dei sensi. So then there's feeling, sensation. Poi c'è questo feeling in inglese che comunque è sensazioni. Sensazioni. Where we distinguish between pleasant and unpleasant and neutral sensations. E lì noi distinguiamo le sensazioni in piacevoli, spiacevoli e neutre. So this is the dualistic world we live in that we cannot escape. E questo è il mondo dualista in cui viviamo e da cui non possiamo scappare. Everything we experience is either pleasant or unpleasant. Tutto ciò che sperimentiamo è o piacevole o spiacevole. There's a little area in the middle which is neutral. Poi c'è questa piccola area nel mezzo che è neutra. But if you look with careful eye, you will see it shades into unpleasant or pleasant. Se guardi con occhio attento, vedrai subito che questa neutralità comincia a sconfinare o verso il piacevole o verso lo spiacevole. Then there are perceptions. Poi ci sono le percezioni. So perceptions are like photocopies of what we experience as a mental image. E le percezioni sono come delle fotocopie di quello che sperimentiamo sotto forma di immagini mentali. And these perceptions grow into concepts. E queste percezioni poi crescono trasformandosi in concetti. These words, these concepts hold the history of our experience. E queste parole, questi concetti tengono in sé tutta la storia della nostra esperienza. That's why whenever we hear something, see something, etc., we always see it with the bias of our past experience. Ecco perché quando noi vediamo qualcosa lo vediamo sempre attraverso la mappa, diciamo, della nostra bias, prejudice, bias. Il pregiudizio, il preconcetto della nostra esperienza precedente. Prejudice is too strong. What's the bias? Lo schema, a pattern. È una cosa confondente. Bias. You prefer this. You prefer this to that. La preferenza. Preferenza. Non so. Vabbè, dai. Point of view. Point of view. because. Inclinazione. Well, because everything we are looking at is. Because everything we're looking at. Perché tutto quello che noi guardiamo. We're looking at it through the conceptual mind. Lo guardiamo attraverso la mente concettuale. It's always distorted. Che è sempre distorta. So what we are doing in our meditation is going back to the fundamental experience. Quindi quello che facciamo in meditazione è di ritornare all'esperienza fondamentale. So we're tasting food as simple sensation. Quindi assaggiamo, assaporiamo il cibo come semplici sensazioni. Before the bias of thinking to ourselves, you know, this doesn't taste nice, this, you know, this pizza isn't quite right. Prima di questa interpretazione della mente che ci fa dire questo non mi piace o altre cose del genere. See, that's the bias. Questo è non so come chiamarlo. Pregiudizio. It's just prejudice has a moral tone to it. Con la differenza che il pregiudizio ha dentro un tono morale. Whereas bias is just, well, it also has a similar meaning in English, but it also suggests you're not seeing it properly, or you're only seeing it from your mentre point bias, of view. Bias, questo diciamo pregiudizio mentale, contiene un po' del pregiudizio vero e proprio, ma si tratta più di non riuscire a vedere chiaramente. Oh yeah, I just wondered where it was. So this is perception. Quindi la terza era le percezioni. Sì, sanya. The fourth one is sankara. Poi c'è il quarto, sankara. These are our habits. Queste sono le nostre abitudini. Now the reason why the Buddha separates these is to show us where the problem lies. E la ragione per cui il Buddha separa tutte queste cose in categorie è per farci vedere dov'è che nasce il problema. It lies in these sankhara, because these are created by the will. E il problema sta proprio in sankhara, perché queste abitudini vengono create dalla volontà. Oh, that's where our work is, to purify the sankhara. Ecco perché il nostro lavoro va lì, per purificare sankhara. And the final one is consciousness. Poi il finale, il quinto, è la categoria della coscienza. Now you have to think of consciousness as a multidimensional screen. E dobbiamo intendere la coscienza come uno schermo multidimensionale. Upon which everything we're experiencing is manifest. In cui si manifesta tutto quello di cui facciamo esperienza. All the senses. Tutti i sensi. All the thinking, the philosophy, the art, it's all within that screen. Tutto il pensiero, la filosofia e l'arte contenuto in questo schermo. Ah. And all of that, which is the psychophysical organism. E tutto questo che è l'organismo psicofisico. Is conditioned. È condizionato. So that consciousness is where the sankhara manifests. Quindi questa coscienza è da dove si manifesta sankhara. So when the greed, for instance, for food, che quando c'è avidità per il cibo, won't rise until there's an occasion which draws it. Questa avidità per il cibo non sorgerà fino a quando non c'è un'occasione che la attira. So underneath all our lives there is this line of not knowing. Quindi sottostante a tutta la nostra vita c'è questa linea di non sapere, which is creating that wrong relationship, che crea questa relazione errata, producing those three roots, those three unwholesome roots, che produce queste tre radici non salutari. This is the delusion. Questa è l'illusione. So it's acquisitiveness, aversion, fear. Che è composta da acquisitività, cioè abilità, avversione, paura. And these have created this another underlying conditioning of all our habits. E poi c'è un altro condizionamento sottostante a tutte le nostre abitudini. And every so often, whatever is happening in consciousness feeds off that sankhara. E tutto quello che accade nella nostra coscienza va ad alimentare sankhara. So when I see food, greed pops up. Quindi quando vedo il cibo, poop, compare l'avidità. Ah, così. Now, dependent on this consciousness, we become aware of the body and mind. Quindi dipendendo da questa coscienza diventiamo consapevoli del corpo e della mente. So in Buddhism these are two different entities. E nel buddismo queste sono due entità diverse. When I say entity, remember, it's still all conditioned. E quando io dico entità, ricordiamoci che è sempre condizionato. Now, the one is dependent on the other. Cioè, uno dipende dall'altro. Ah, so the body is what we experience as sensation. Quindi il corpo è quello che noi sperimentiamo attraverso le sensazioni. But it also includes all the parts of the body that we're not aware of. Ma include anche tutte le parti del corpo di cui non siamo consapevoli. Have you ever felt your big toenail growing? Avete mai sentito che l'unghia del vostro alluce sta crescendo? No, grazie. Do you know that at this present moment, From the marrow in your bones, red and white corpuscles are making their way into the blood. Voi siete consapevoli che in questo preciso momento dal midollo dentro il spinale, dentro la vostra colonna, si stanno creando dei globuli rossi e bianchi che entrano nel vostro sangue? And the bones. E nelle ossa? Yeah. Eh? No. Sì? So, our mind is in the body like milk in water. Quindi la nostra mente è nel corpo come il latte nell'acqua. You can't separate them. Non è possibile separarle. But you can in your meditation. Però lo possiamo fare in meditazione. That's an important insight. Un insight importante. Yes, the body and mind are two different energies, you might say. Il corpo e la mente sono due energie diverse. And it is understood that the mind, the heart mind, heart and mind. E quello che comprendiamo, che è stato compreso, è che la mente cuore has its own form. Ha la sua forma. And upon death it is that which separates from the body. Ed è, e al momento della morte è proprio questa forma che si separa dal corpo. Yeah. You don't have to believe this. Non c'è bisogno che ci crediate. But keep the mind open. Ma tenete la mente aperta. Yeah. Okay. So now dependent upon this psychophysical organism, Nama Rupa. Quindi dipendendo da questo organismo psicofisico che è Nama Rupa, we have the six sense bases. Abbiamo le sei basi sensoriali. So there's the five usual ones and the internal sense base which knows thoughts and feelings, emotions, feelings. Quindi ci sono i cinque sensi di base che tutti conosciamo e poi c'è questa sesta base sensoriale interna che conosce i pensieri e le emozioni. So the eyes are obviously the sense base for seeing. Quindi è ovvio che gli occhi sono la base sensoriale per il vedere. And the brain is the sense base for emotions and all the rest of it. E il cervello è la base sensoriale per le emozioni e tutto il resto collegato. But remember, we're now beginning to understand that the brain is not just up here. Ma adesso si sta cominciando veramente a capire che il cervello non è questa cosa confinata quassù. It runs right the way through our bodies. È qualcosa che si è distribuito in tutto il corpo. I forget. There was some article about the brain of the intestines, around the stomach and intestines, yeah? Ci sono degli articoli, c'è un qualche articolo che lui non si ricorda qual è, che parla del cervello dell'intestino. Yes. So there we are. Eccoci qui. So it's obviously very complex. È sempre una cosa molto complessa. But these sense bases are, in the Buddhist terms, separate experiences. Ma nella terminologia buddista queste basi sensoriali sono cose, esperienze separate. So you cannot see through your ears. Per esempio non puoi vedere attraverso le orecchie. Now dependent upon these sense bases. Quindi dipendendo da queste basi sensoriali. We can contact the world. Noi entriamo in contatto con il mondo. So our contact with the world is dependent on these six sense bases. Quindi il nostro contatto con il mondo dipende da queste sei basi sensoriali. If any of these sense bases are damaged or lost, you've lost an ayatana, a sphere of experience. Quindi se qualcuno delle tue basi sensoriali è stata danneggiata o l'hai persa, viene danneggiato e va perso uno degli ayatana, cioè un livello di esperienza. That point of contact, remember, is when you're going into, for instance, pain, and you're actually going beyond the concept of pain to the feeling, sensations that are causing it. E questo punto di contatto, ricordiamoci, è che quando entriamo dentro qualcosa, ad esempio dentro il dolore, andando oltre il concetto di dolore, andando a sentire come sono le sensazioni. So there must be three things there for us to be aware of something. Quindi ci devono essere tre cose per farci capire che siamo consapevoli di qualcosa. There must be a sense base. Ci deve essere una base sensoriale. There must be an object. Ci deve essere un oggetto. And there must be consciousness. E ci deve essere coscienza. Ah. When that feeling arises, when the sensation or feeling arises into consciousness, quando questa sensazione sorge nella coscienza, we immediately categorize it as pleasant or unpleasant. Immediatamente la categorizziamo come piacevole o spiacevole. Now, up until this point, everything runs according to the psychophysical organism. Fino a quel punto tutto invece si manifesta di conseguenza in accordo con l'organismo psicofisico. Right? You can't stop that. E non è una cosa che possiamo fermare. Mm. This process of perception and feeling. Questo processo di percezione, di sentire. The perception and feeling in Buddhist psychology always arise at the same time. E la percezione e la sensazione nella psicologia del Buddha sorgono sempre contemporaneamente. So that's given once you've got a human body, or in fact any sentient being. E è una cosa come scontata una volta che hai un corpo umano o un corpo di qualche altro essere senziente. Even a worm, anche un verme, which I believe only has, I think it's 5 neurons. Che credo abbia solo 5 neuroni. You can see if you touch it, vede, no, che se lo tocchi si contrae. It knows it's in danger, you know, sa di essere in pericolo. So even that little worm has, in Buddhist terms, consciousness. Quindi anche quel piccolo verme nella psicologia del Buddha ha una coscienza. And it knows what's pleasant from unpleasant. E anche il verme sa distinguere quello che è piacevole da quello che è spiacevole. Now whether the rest of this process happens is, maybe not, I don't know. Poi se tutto il resto del processo accade anche al verme, possiamo dire forse sì, forse no, non si sa. But definitely with the higher animals and ourselves, the rest of it manifests. Ma di sicuro anche il resto si manifesta negli animali più evoluti, nei mammiferi, eccetera, e sicuramente per gli umani. So, dependent upon the perception of pleasant or unpleasant, we have a relationship. Quindi, in base a questa sensazione di piacevolezza o spiacevolezza, noi abbiamo una relazione. And this relationship, remember, is dependent on the habits we've formed. E questa relazione, se vi ricordate, dipende dalle abitudini che formiamo. Which is dependent on one of the three unwholesome roots. Che dipende da una delle tre radici non salutari. And has its base in this not knowing. E ha come base questo stato di non sapere. And that is what the Buddha means when he says desire is the cause of suffering. Ecco cosa intende il Buddha quando dice che il desiderio è la causa della sofferenza. So we have to make a distinction between what we experience as pain. Quindi dobbiamo creare una distinzione tra quello che sperimentiamo come dolore. And what rises in us when aversion, fear or greed occur. E quello che sorge dentro di noi quando invece si verifica l'avidità, l'avversione o la paura. We can see that aversion and fear are unpleasant. Noi possiamo vedere che l'avversione e la paura sono spiacevoli. But remember, we're not so clear about greed. Ma ricordiamoci che non abbiamo altrettanta chiarezza sull'avidità. So you have to feel the greed to recognize it's not a pleasant state. Quindi dobbiamo davvero sentire l'avidità per riuscire a riconoscere che poi non è uno stato così piacevole. And we know it's not unpleasant when the greed is not satisfied. E sappiamo che non è piacevole quando questa avidità non ci dà soddisfazione. Okay, so here we have a movement of desire, of grasping or pushing away. Quindi qua abbiamo un movimento del desiderare, che è quello di afferrare qualcosa o di respingerla. Now, in the next moment, the upadana, this is translated as grasping. Quindi nel momento successivo, upadana, che qua è tradotto come afferrare. Afferrare, no. Aspetta, dov'è? Brahma. Brahma? Boh. Al contatto con si arriva nelle sensazioni, dalle sensazioni di Brahma. Sì, Brahma is the desire, da Brahma come che si deriva l'attaccamento. Ok. Attaccamento is not quite getting the point across. Ma con attaccamento non si comprende veramente questo concetto. At this point there's an identity with the desire. Perché a questo punto c'è un'identità con il desiderio. Ah. And once you've identified, it's very difficult to stop the next step. Una volta che sei identificato, è molto difficile fermare il passo successivo. The next step is to empower the desire. E il passo successivo è potenziare, dare potere al desiderio. And you get what you want. Quindi ottieni, vai a prenderti quello che vuoi. Okay, so I will use my usual example. Adesso userò il mio solito esempio. Ice cream. Il gelato. You see the ice cream. Vedi il gelato. Okay? So there arises through the memory, etc., of pleasant state of mind. E questo ti sorge attraverso un ricordo, cose del genere, di come uno stato mentale piacevole. So that's the Vedana. Questa è Vedana. The actual contact is a bit too subtle for ordinary daily life. E il contatto vero e proprio è un po' tanto sottile per la vita di tutti i giorni. But we definitely know that when we see ice cream or caffè, there arises in us a pleasant feeling. Ma tutto quello che tutti noi sappiamo è che quando vediamo un gelato o un caffè, quello che sorge in noi è una sensazione di piacevolezza. Then there arises my relationship to it. Poi sorge la mia relazione con questo. Want it. Lo voglio. Want. Voglio. The voglio says I, doesn't it, sì. In Italian? Volere. Volere. Ecco. Volere, sì. Come processo. Wanting. Sì, wanting. Quindi, the next moment, yes, the next moment is I want it. Il momento dopo è lo voglio, io lo voglio. And then you empower it. E a quel punto dai potere a questa cosa. So you get it. Quindi vai a prendere questo oggetto, questo gelato. Sì, so in our normal language it's I see, want, get ice cream. Quindi nel nostro linguaggio normale è io vedo, what was after, voglio prendere, prendere ice cream, il gelato. But in the Buddhist psychology, ma nella psicologia del Buddha, it's ice cream, cioè gelato, see, vedere, want, volere, I, io, get, lo prendo. Now, if that were not so, there'd be no escape from suffering. Se non fosse in questo ordine, non ci sarebbe nessuna possibilità di uscire dalla sofferenza. This was a crucial insight on his part. E davvero questo è stato un insight fondamentale da parte sua. The self arises later in this process. Il sé sorge dopo in questo processo. If the self, the sense of identity, arose with the desire. Se il senso del sé, quindi l'identità, sorgesse insieme al desiderio, I want, io voglio, the identity would immediately be confused with the desire and be unable to stop that desire. Allora l'identità verrebbe immediatamente confusa con il desiderio e non sarebbe possibile fermarlo. So when you're sitting in meditation and some desire arises. Quando sei seduto in meditazione sorge qualche desiderio. What you're experiencing is the desire, but not the I. The I is not in the desire. Quello che stai sperimentando è il desiderio, ma non l'io. L'io non è dentro il desiderio. And it's because of that that connection between pleasant, unpleasant feeling, wanting, not wanting. E a causa di questo, la connessione tra piacevole e spiacevole e voglio non voglio. But by putting our awareness right there. Se io metto la mia consapevolezza direttamente lì. As this desire is not being empowered. Se questo desiderio non viene potenziato, non viene dato potere a questo desiderio. It's not empowered, you see. That energy is being exhausted. Allora quell'energia verrà esaurita. Where does this energy come from, of desire? Da dove deriva questa energia del desiderare, del desiderio? Three guesses. Avete tre possibilità di indovinare. It's coming from the Sankara. Viene da Sankara. Ah, from the habits. Dalle abitudini. Ah. So every time we allow this desire to pass away, we are undermining the power within that habit. E ogni volta che lasciamo che questo desiderio si esaurisca da solo e se ne vada, noi andiamo a minare il potere che hanno tutte queste abitudini. This is the process of renunciation. Questo è il processo della rinuncia. Ah, you're not denying the world, you're trying to get rid of the wrong relationship. Non si sta negando il mondo, stiamo soltanto cercando di liberarci della relazione errata. And that's what we're doing when we're practicing on a retreat. We're letting go of these desires. Ed è questo che facciamo quando pratichiamo in un ritiro, lasciamo andare il desiderio. And then when we leave, the first thing we do is seek ice cream. E poi la prima cosa che facciamo quando usciamo dal ritiro è farci un bel gelato. So all the good work of eight days is completely gone. Quindi tutto il buon lavoro fatto nei giorni prima è sparito. Then we come back next year for more suffering. E torniamo l'anno dopo con ancora più sofferenza. So you can see we have to keep the effort going all the time. Vedete com'è importante mantenere lo stesso livello di sforzo tutto il tempo. There are no holidays in the spiritual life. Nella vita spirituale non ci sono vacanze. It is Well, you can have the gelato, but not the desire, not the wrong desire. Sì, puoi avere un gelato, ma non il desiderio errato. Ah, you see. See, that's if you think the desire, if you think the ice cream is at fault, then your life becomes miserable. Se pensi che sia colpa del gelato, allora la tua vita diventa un inferno, una vera miseria. And this was partly the thinking of the Jain. Partly thinking of the Jain. Partly thinking. Questa era in parte la concezione dei Jaina, dei Jainisti. The Jaina think that the body is at fault. E infatti i jainisti pensano che il corpo sia qualcosa di sbagliato, quindi sia colpa del corpo. In other words, if it weren't that the body feels hungry, you wouldn't have greed. Se il corpo non sentisse la fame, non ci sarebbe l'avidità. But in the Buddha's teaching it's the other way around. Ma nell'insegnamento buddista è proprio il contrario. It's because of our relationship to the body that's causing the problem, not the body itself. Il problema nell'insegnamento buddista c'è nella relazione che noi abbiamo con il corpo. So the next word we have is bhavo. Poi la parola successiva che abbiamo è bhavo. Now bhavo here means becoming. Qua bhavo significa divenire. In other words, this I is reproducing itself. In altre parole, questo io si riproduce. So the I is not always there. Quindi non c'è sempre questo io. Ah, you see? And it's we say you'll see in some texts, you see in some writers, they talk about selfing. In alcuni testi, in alcune scritture c'è scritto selfing, riprodurre il sé, no? Selfing. Suona in qualche modo. Selfing, reproducing the self, or what? Yeah, well, it's a continuous, there's a new self continuously arising. Quindi c'è un nuovo sé che continuamente sorge. Ah, see? The self I had yesterday is dead. Il sé che avevo ieri è morto. Ah, the self that is arising now is alive. Il sé che sta sorgendo in questo momento è vivo. Ah, even now, the self I was just talking about is dead. Ma adesso il sé di cui ho parlato un mezzo attimo fa è già morto. Ah, so. Yeah. So the bhava is selfing. It's also an empowerment of the act. Quindi Bhava è questo selfing, questo continuo sé che cambia, ed è anche l'empowerment dell'azione, il dare potere all'azione. Dare potere all'azione. And empowerment. That is Chetana, the will. Chetana, la volontà. So the self arises, continues to arise. There is a act of will to create the act. Quindi c'è il sé che sorge, il sé che continua a sorgere, e poi c'è l'atto di volontà. And there's the action itself. E poi c'è l'azione di per sé. And once you've created an action, there has to be consequence. E una volta che è creata l'azione, allora ci saranno le conseguenze. Because the action goes into a matrix of relationships. Perché l'azione entra in una matrice di relazioni. And you don't know what will happen to your act. E non puoi sapere cosa accadrà dopo questa tua azione. You might be acting out of enormous cosmic compassion of the heart. Può darsi che tu compia un'azione partendo da uno spazio enorme di compassione cosmica del tuo cuore. And somebody will hate you for it. E ci sarà qualcuno magari ti odia per quello che fai. But it also, and this is most important for us, or more important for us, well, it's important for us. E poi c'è un'altra cosa che è importante per noi. It goes into the matrix of our own psychology. È che entra nella matrice della nostra psicologia. So even a small act of kindness can affect the whole of our lives. Quindi anche un piccolissimo gesto di gentilezza può avere un'influenza su tutta la nostra vita. And one wrong decision and action can land us in jail. E una decisione sbagliata, un'azione errata ci può portare in prigione. So we have to be careful. Quindi dobbiamo sempre stare attenti. So this is Bhava. Questo è Bhava. So the next is just telling us that when you create an act, there's the beginning of an act. Poi il passo successivo ci descrive che quando noi facciamo un'azione c'è l'inizio dell'azione. So that's the birth, jati. Che è, quindi la nascita di questo che è jati. There's the process of the act. Poi c'è il processo di questo atto. Which is the arising and decay of the action. Che è il sorgere, manifestarsi, poi il decadere dell'atto. And there's the end of the act. E poi c'è la fine di questo atto. If you want to see this as a rebirth process. E se lo vogliamo intendere come un processo di rinascita. The whole middle section is creating a person, a character and personality. Possiamo vedere che tutta la sezione intermedia, quella parte di mezzo, crea la personalità e il temperamento, il carattere. But on death, whatever is dependent upon that life disappears. Ma nel momento della morte tutto quello che è dipendente da quella vita scompare. Such as the surface personality traits. Per esempio tutti i tratti di personalità superficiali. But what stays are these sankhara, these habits. Ma quello che resta sono i sankhara, cioè le abitudini. So these are your attitudes. Le vostre attitudini, quindi. And, sì, and in the next life these are the things that come up and you carry on. E nella vita successiva sono queste attitudini che verranno con voi e le porterete avanti di nuovo. So in that sort of long term of rebirth, every rebirth is a beginning, there's a whole process, and then there's a death. Quindi se guardiamo le rinascite come un processo più a lungo termine, in ogni vita, in ogni nascita, c'è appunto il momento della nascita, lo svolgimento della vita, il momento della morte. Sì. Now, you'll see then the patiloma, this is the, it's not the opposite, it's, I don't Qui know. C'è patiloma che non è proprio l'opposto. But you'll see here that dependent on the destruction of ignorance, the sankhara become destroyed. Quindi, se dipendendo dalla distruzione dell'ignoranza, i sankhara vengono distrutti. Actually, better cessazione. Eh? I think the Italian, the cessation. Cessazione. La cessazione. Of the, sì. Eh? Cesso, ecco, grazie. Every time you undermine that not knowing, you're undermining the whole process. Ogni volta che tu vai a minare questo non sapere, vai a minare l'intero processo. Okay, so there are two places where we can destroy this constant rebirthing. Quindi ci sono due punti in cui noi possiamo distruggere questo continuo rinascere. Whether it's rebirthing throughout one life, see, every moment you're creating yourself. Che sia il rinascere che accade nell'arco di un'unica vita, cioè ogni momento c'è una morte, una rinascita. Or whether it's a continuous rebirthing process. O che sia il processo vero e proprio di morte e rinascita. The first one we've already touched upon is where desire arises. Il primo dei due, ne abbiamo già parlato, è quando sorge il desiderio. Ah. So, a lot of our practice is to perceive wrong, unwholesome or wholesome desires. Quindi molto della nostra pratica ha a che fare con il percepire i desideri non salutari o errati. Remember, this psychology is about getting rid of suffering. E ricordiamoci sempre che questa psicologia si indirizza a liberarci dalla sofferenza. It presumes that once this is gone, we are happy. Perché presume che una volta che la sofferenza se n'è andata, noi saremo felici. So remember, when the Buddha was liberated, ricordiamoci che quando il Buddha è diventato liberato, he didn't sit there like a stone statue, eh? Non è rimasto seduto come una statua di pietra. Ah, he got up and he si è alzato and engaged. Ah, e si è coinvolto socialmente. But the underlying delusion, ma l'illusione che ci sta sotto, is expressed in impermanence. Si esprime nell'impermanenza. Because our experience of life is some form of connected continuation. Perché la nostra esperienza della vita è una qualche forma di continuazione connessa. In the morning when you get up and you see yourself in the mirror, alla mattina quando ti alzi e ti guardi nello specchio, you don't get a shock. Non ti viene uno shock. But supposing you got up and it was somebody else's face. Ma immagina se ti alzi nello specchio e c'è la faccia di qualcun altro. But actually it is. In realtà è proprio così. It's just we haven't seen the change. Semplicemente non l'abbiamo visto. Ah, so we live under the delusion that, oh yes, there's change, but it's continuous, and the sense of self is continuous. Quindi noi viviamo in questa illusione che sì, accettiamo, sappiamo che c'è il cambiamento, ma pensiamo che sia una cosa continuativa, una continuazione del sé. And of course there is that delusion of the self itself. E poi c'è l'illusione del sé in quanto tale. And that's why in our meditation we are looking at the teaching of not self. Ecco perché nella meditazione guardiamo l'insegnamento del non sé. Ah, the Buddha doesn't say there is no self, remember. E ricordiamoci sempre che il Buddha non ha detto che non esiste il sé. And this would be a contradiction to everybody's experience. E sarebbe una contraddizione nell'esperienza di ognuno di noi. He's arguing against the Hindu self. Ma lui sta discutendo, dibattendo per contrastare quest'idea indù del sé. Actually, it's more correct to say Brahmin, Brahminic. Dei Brahmini, soprattutto Brahminica, l'idea Brahminica del sé. Because there was confusion as to what it was that was eternal. Perché c'era una confusione su quello che si riteneva essere eterno. And so the Buddha was saying, okay, you believe there's a self. Quindi il Buddha gli ha detto, ok, voi credete che c'è un sé. Ok, let's investigate and see what is not self. Allora andiamo a investigare e per vedere che cosa è non sé. And we know it's not self when we make it an object. E noi sappiamo che è non sé quando quella cosa la creiamo come oggetto, diventa un oggetto. Sì, or mine. O mio. O mio, you see. So for instance, you know, the usual thing, if somebody steals your smartphone. La cosa solita, qualcuno ti ruba il telefonino, lo smartphone. You go around saying, somebody's stolen my smartphone. E tu vai in giro a dire, qualcuno mi ha rubato il mio smartphone. Ah, but it's not yours, it's the thief's. Non è tuo, è suo. È suo di se stesso, insomma. No? The thief owns the phone. You mean the thief's. Il telefonino non è più tuo, è del ladro che te l'ha preso, te l'ha rubato. Eh? I thought it was its own. Okay, I translated correctly. Ah, you did, yeah. So it's the same if you're walking along the road. Se per esempio cammini per la strada. And just suddenly, your leg fell off. Your what? Leg fell off. E a un certo punto ti cade una gamba. Ah, sì? So you find yourself hopping. E allora a quel punto ti trovi che stai balzellando senza una gamba. Ah, and you say to people, that's my leg. E dici alla gente, quella è la mia gamba. In what way is it your leg? Ma com'è possibile che sia la tua gamba? The law would say it's your leg, because you have to get rid of it. Eh? I didn't get it. Oh, sorry. I'm a bit slow with jokes. Sorry. The law would say it's your leg, because la legge direbbe la gamba è tua. Because you have to get rid of it. Perché devi prenderla e liberartene, portarla via. So, this whole concept of possession has to be investigated. Quindi è l'intero concetto di possedere che va investigato. Di possesso. So you can see when we are working at that level. Oh, sorry. First of all, there's the object. Quindi per prima cosa lì c'è l'oggetto. So I can see my thoughts. I can see I can feel the emotions. I can feel see my body. Quindi io posso vedere i miei pensieri, sentire le mie emozioni e sentire il mio corpo. So it's just a very simple statement. The perceiving or the perceiver cannot be the perceived. Quindi è un'affermazione molto semplice. Il percepire o colui che percepisce non può essere quello che è percepito. Ah, so you have to investigate that sentence, you might say. E quindi si tratta di investigare questa frase, questa affermazione. And the other thing the Buddha points out is that this stuff is not under our complete control. E l'altra cosa che afferma il Buddha è che tutta questa storia non è sotto il nostro totale controllo. If it's not under our control, the center of will, the center must be in there, not in me. Se non è sotto il nostro controllo, allora il centro della volontà deve essere là, non dentro di me. So it can't be me. Quindi non può essere me. You know, like we have the illusion that when we're driving a car, I think I've said this before, when we're driving a car. Quindi penso di avervelo già detto, ma noi abbiamo l'illusione che quando guidiamo l'automobile. You know, you are, shall we say, locked into the process of driving. E tu sei bloccato dentro il processo del guidare. You and the car become, as it were, one process. Tu e l'automobile diventate come se fosse un unico processo. Ah, but if the car just suddenly stops, then you realize, oh, the car's not me. Ma se all'improvviso la tua automobile si fermasse, ti renderesti conto che non siete un'unica cosa. Ah, so, the Buddha says, if I was in control of the body, I would be able to say, you know, be bigger, more handsome, grow hair, but nothing happens. E il Buddha dice, se io avessi il controllo totale del mio corpo, allora potrei diventare più bello, farmi ricrescere i capelli, ma non succede così. Nothing happens. Non succede nulla. When we go through the other things, such as feeling, emotions and all that, we see we don't have this direct control. E quando attraversiamo anche le altre cose, le sensazioni, le emozioni, eccetera, vediamo che anche lì che non abbiamo il controllo diretto. So again the Buddha asks, is this yourself? Quindi il Buddha di nuovo chiede, sei tu e te stesso? Now, that process is undermining a certain wrong relationship, which is this ignorance. E questo processo va a minare questa relazione errata che è l'ignoranza. What is it that is ignorant? What is it? What is it that doesn't know? Quindi che cos'è che non sa? Ah, che cos'è? Three guesses. Avete ancora tre possibili risposte per indovinare. Tre tentativi. This is your Satipanya. Questo è il vostro Satipanya. Ah, Satipanya, your intuitive awareness. Satipanya è la vostra consapevolezza intuitiva. Is what's experiencing everything. e che è quello che sperimenta qualunque cosa, ogni cosa. The body does not experience itself. Il corpo non lo sperimenta di per sé. The body does not know that the knee is hurting. Il corpo non sa che il ginocchio sta facendo male. The process of perception does not know itself. E il processo della percezione non conosce se stesso. Emotions don't know themselves. Le emozioni non conoscono loro stesse. The emotion doesn't say to you, oh look, I'm angry. L'emozione non viene a dirti, guarda che sono arrabbiata. And this consciousness is just a display. E questa coscienza è solo uno schermo. A multidimensional display, like a monitor. Uno schermo multidimensionale, proprio come un monitor. So this intuitive awareness is our only true intelligence. Quindi questa consapevolezza intuitiva è l'unica vera intelligenza che abbiamo. And it's using the faculties of the mind and body to create this world. E usa le facoltà della mente e del corpo per creare questo mondo. And as it begins to extract itself from the world that it has been creating. E comincia ad estrarre se stessa dal mondo che è stato creato. It begins to realize its own qualities. E in quel modo comincia a rendersi conto delle proprie qualità. Searching but not finding the builder. Quindi cercando ma non trovando il costruttore. So now I found the constructor. Ora ho trovato il costruttore. The constructor is the delusion of the self. Quindi il costruttore è l'illusione del sé. So the whole world I'm creating begins to crash. Quindi tutto il mondo che ho creato, che sto creando, comincia a infrangersi. And when I'm in that position, in myself of the observer. E quando sono in questa posizione dentro me stesso dell'osservatore. As if you were in the guided meditation that you're in a hide bird watching, that you're in a hide observing everything. Come c'era in quell'insegnamento registrato che sei nel bird watching dell'occhio, sei nascosto, that you're hidden from the birds watching. Sei nascosto, guardi gli uccelli senza essere visto da loro. Or as one writer puts it, an observation post. Oppure sei in una postazione di osservazione. There is the slow growing realization. C'è questa realizzazione lenta che cresce lentamente. That this is the unconditioned consciousness. Che questa è la coscienza non condizionata. So he's stuck for words. Could not find the words. Yeah, because there's no word to describe what he's experiencing. E lì non è riuscito bene a trovare le parole perché non ci sono parole che possono veramente esprimere questa esperienza. So he has to use the same word that he uses for the ordinary mind. E ha dovuto usare le stesse parole che vengono usate per la mente ordinaria. So the word citta translates as heart mind. Quindi citta si traduce come cuore-mente, mente-cuore. Here it's not translated well as conscience, consciousness. E qua non è tradotta correttamente perché c'è scritto coscienza. Vijnana is consciousness in Pali. Perché in Pali è vijnana la coscienza. Citta is the body, is the mind and heart, what we. E citta invece rappresenta mente e cuore insieme. So now he's talking about something else which is not conditioned. Ora lui sta parlando di qualcos'altro che non è condizionato. So this is that is the process by which we become liberated from suffering. È il processo con cui diventiamo liberati dalla sofferenza. And this really is the huge insight he had into the human condition. E questo è stato un insight davvero enorme che il Buddha ha avuto rispetto alla condizione umana. And that's the path we're on. E questo è il sentiero che stiamo percorrendo. Yippee! So I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. And I have not made your confusion any worse. E che non ho peggiorato in nessun modo la vostra confusione. By your clear understanding. E con la vostra chiara comprensione. And devotion to practice. E la vostra devozione alla pratica. May you be liberated from all suffering. Possiate voi essere liberati da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. Ah, it's getting a little louder. Sta diventando un pochino più ad alta voce il vostro sadhu. A little more appreciation, maybe? Forse c'è un po' più di apprezzamento.